tutte e tutti e ben ritrovati qui a 42 La Risposta. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Oliviero, eccoci tornati alla prima puntata dopo le vacanze di Natale. Oliviero, di cosa parliamo oggi? Oggi affronteremo un tema che abbiamo già trattato in alcune delle puntate precedenti, in particolare nell'intervista a Luigi Lollini con il suo romanzo La Controfigura. Qualche settimana fa. Il tema della puntata di oggi è infatti molto simile ed è quello della verità, un tema per niente facile da affrontare, no? Sì, Maria, la verità è forse uno dei temi su cui l'umanità si interroga da più tempo e ultimamente anche a causa dell'esplosione delle cosiddette fake news è tornato molto alla ribalta. Qualche anno fa il termine post-verità è stato eletto addirittura a parola dell'anno dal prestigioso dizionario Oxford, alimentando un acceso dibattito tra semiologi, filosofi, teorici dei media. Esiste la verità? E se esiste, su quale piano va valutata? Sull'aderenza ai fatti, sulla coerenza interna del discorso, insomma, un bel rompicapo. È il nostro punto di partenza per affrontare questo tema così complesso, il tema della verità. Non sarà però un saggio filosofico o sociologico, giusto Oliviero, ma come al solito un romanzo pubblicato tra l'altro diversi anni fa. Sì Maria, era il 2000 quando è stato pubblicato per la prima volta in Francia L'avversario di Emmanuel Carrère, che abbiamo letto nelle edizioni Adelphi del 2013. Si tratta del resto di un lavoro che segna un po' una svolta nella produzione letteraria di Carrère, che approda con L'avversario una sorta di romanzo verità, forma che ritroveremo anche nelle opere successive come Limonov o Vite che non sono la mia. L'avversario è un romanzo verità non solo perché narra una storia realmente accaduta, ma lo fa a partire dal punto di vista dell'autore stesso che entra a pieno titolo nel racconto, non solo come punto di vista, funzione narrativa, ma come personaggio vero e proprio, narrando la sua esperienza di investigatore e autore. Ma sveliamo subito ai nostri ascoltatori l'oggetto di questa indagine, Oliviero. Sì, ci provo senza anticipare nulla. Si tratta della vita di un uomo, Jean-Claude Romain, che costruisce tutta la sua esistenza sulla menzogna. Mente sul titolo di studio, sul lavoro, sulle sue frequentazioni, insomma, mente continuamente, costruendo un personaggio, il rispettabile dottor Romain, a cui tutti credono ciecamente. Fin qui però Oliviero niente di speciale, le cronache infatti sono piene di casi di finti professori, finti medici che magari non hanno mai ovviamente ottenuto un titolo vero e proprio. O di politici dai curricula gonfiati con master, corsi prestigiosi mai frequentati. Ogni riferimento è puramente casuale. Il caso del dottor Romain però è diverso ed è molto più controverso. Il protagonista del romanzo infatti non mente per ottenere un vantaggio, non praticherà mai la professione di medico, non otterrà uno stipendio più alto grazie alle sue bugie. Romain comincia a mentire per sottrarsi alla verità, all'esperienza del fallimento, di un piccolo fallimento all'inizio. Rifiutato dalla ragazza che in seguito diventerà sua moglie, si chiude in un isolamento che lo porterà a trascurare gli studi, a non sostenere l'esame di ammissione al secondo anno di medicina, corso che frequentava del resto con profitto. Ma dirà a tutti di aver superato l'esame e comincerà così ad inanellare una serie di menzogne relative prima alla laurea, poi al posto di lavoro, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, alle assenze di ricerca e così via, costruendo il personaggio del dottor Romain, a cui tutti crederanno per 18 lunghissimi anni. Fino all'evento clou che però non vi sveleremo. E no, anche se il romanzo parte proprio da lì. Per adesso però vi lasciamo prendere un po' di fiato con un brano musicale da cantare tutti a squarciagola, ovvero Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo so. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovrei su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità che fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità che fa male, lo so. Se solo torna da te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima. Io t'amerò in confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità che fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, solo torna da te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Bentornati in studio, 42 La Risposta, ai microfoni oggi Oliviero e Maria. Ben ritrovati, ciao Oliviero. Vi stavamo raccontando la storia del dottor Roman, o del finto dottor Roman, descritta mirabilmente da Carrère nel suo L'avversario. È una storia vera, dicevamo in apertura, la storia di un uomo che costruisce la sua esistenza sulla menzogna, sull'inganno, senza un motivo apparente. C'è da dire che grazie alle sue bugie il dottor Jean-Claude Roman riuscirà a conquistare la fiducia dei genitori di sua moglie, che gli affideranno i loro risparmi, cosa che del resto faranno anche i suoi genitori, e ciò gli permetterà di simulare delle entrate mensili, di condurre una vita agiata con la moglie Florent, i suoi figli, per lunghi anni. È vero, ma come dicevamo, il meccanismo che innescherà questo processo di falsificazione, di menzogna continua, non è quello del calcolo, della ricerca di un vantaggio, millanto un titolo che non ho per guadagnare di più o per ottenere maggior prestigio. Nel caso di Roman è un meccanismo di sottrazione. Lo confessa lo stesso Roman quando dice, riferendosi ai suoi genitori: magari sarebbero stati pronti ad ascoltarmi, come Florence del resto, eppure non sono mai riuscito a parlare. E quando rimane incastrato in questo ingranaggio per non deludere, la prima bugia chiama la seconda e poi vai avanti tutta la vita. E Oliviero, non sembra però anche questa dichiarazione una simulazione, un modo per camuffarsi da vittima, la vittima di un ingranaggio più grande, e sottrarsi così alla responsabilità delle sue azioni? Del resto non è del tutto vero che Roman non riceve un vantaggio dalle sue menzogne, è grazie ad esse che conquisterà le attenzioni di Corinne, che poi diventerà la sua amante. È vero, il dottor Roman ricava dei vantaggi dalle sue menzogne, ma a che prezzo? Ogni giorno deve lasciare la sua casa fingendo di andare a lavoro a Ginevra, all'OMS, per recarsi invece nei boschi circostanti a camminare da solo, a volte passando il tempo in bar sempre diversi di alcune cittadine vicine, o addirittura nel parcheggio dell'OMS sotto quello che avrebbe dovuto essere il suo ufficio. Eh sì, c'è la scena in cui porta la famiglia di domenica una volta a guardare da lontano il suo ufficio, indicando proprio dal parcheggio la finestra corrispondente all'interno del grande palazzo. Una scena tristissima, non trovi? Non voglio giustificare le azioni di Roman, ma se mettiamo sulla bilancia i benefici, le pene innescati dalle sue menzogne, anche solo fino a quando il castello reggeva, beh, non so da che parte la bilancia penderebbe. Del resto non siamo noi i giudici della vera vita del falso dottor Roman, ma continuo a chiedermi perché, come è stato possibile, e per così tanto tempo, cioè 18 anni, non vuotare il sacco, liberarsi, no, da quel peso enorme delle bugie continue. Beh, lo dice lui stesso, non tollerava di tradire la fiducia di chi credeva in lui, a cominciare dal non voler ammettere la piccola sconfitta iniziale e non aver superato l'esame di ammissione al secondo anno di medicina. Però Roman non supera l'esame perché non si presenta all'esame, sarebbe stato ancora più facile ammetterlo, no? Ma lui proprio non ci riesce, il senso di colpa è troppo grande. Eh sì, perfezionismo, incapacità di elaborare i passi falsi, il senso di colpa, c'è tutto un inventario delle psicopatologie moderne. Di cui sembrano sempre più vittima i nostri adolescenti. Speriamo non diventino tutti tanti dottor Roman. No. E su questo augurio lanciamo il secondo pezzo dei Radiohead dal titolo Fake Plastic Tree. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. A fake plant. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of herself. The words are out. The words are out. Could be who you wanted. Oh. Rieccoci in studio, qui a 42 La Risposta, sulle note di Fake Plastic Trees, un brano tratto dall'album The Bands, il secondo nella lunga carriera dei Radiohead. E ricordiamo ai nostri ascoltatori il tema della puntata di oggi: la verità, o forse ancora di più il suo contrario, la menzogna. Sì Maria, affrontiamo questo tema a partire dalle pagine dell'Avversario, romanzo di Emmanuel Carrer che descrive la vita vera e inverosimile allo stesso tempo del dottor Roman. Prima della pausa musicale ci siamo chiesti quali siano stati i meccanismi che hanno spinto quest'uomo, Jean-Claude Roman, a costruirsi un'identità mentendo continuamente e a tutti sul suo lavoro, sulle sue occupazioni, sul suo stato di salute, insomma su ogni aspetto della sua esistenza. Il castello di carte che Jean-Claude costruisce resta in piedi, resiste per un tempo lunghissimo, 18 anni, in cui sembra che nessuno, né sua moglie Florence, né i suoi amici, Luc e Cécile o i suoi genitori, abbia mai avuto alcun dubbio. Sì, Oliviero, e ad essere ancora più incredibile proprio questo aspetto della vicenda, com'è stato possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Che nessuno abbia mai avuto dei sospetti su Jean-Claude. Eppure, a voler guardare bene di crepe, contraddizioni, lacune, il racconto del dottor Roman era pieno fin dall'inizio. Perché non era possibile chiamarlo nel suo ufficio? Di cosa si occupava realmente? E perché non frequentava nessuno dei suoi colleghi di lavoro? Queste sono solo alcune delle domande che il lettore si pone insieme all'autore del romanzo, che, ricordiamo, entra direttamente nella vicenda narrata, con i suoi dubbi, le sue osservazioni, a volte il suo stupore. Sì, ci stupiamo di come sia stato possibile credere al racconto di Jean-Claude, fidarsi di lui, affidargli addirittura i propri risparmi, senza aver avuto mai uno straccio di conferma di quanto raccontava. Nessun compagno di università lo aveva visto dopo il primo anno sostenere un esame, nessuno aveva partecipato alla cerimonia di laurea, nessuno lo aveva visto esercitare la professione di medico o frequentare i personaggi famosi che diceva di conoscere, nessuno di coloro i quali aveva affidato a Jean-Claude i suoi risparmi ha avuto il dubbio, la curiosità di verificare i propri conti, almeno fino all'epilogo della storia. Che è poi il punto iniziale del romanzo, il punto di partenza, ma che noi, come abbiamo già detto, non vi sveleremo. Muori dalla voglia di rivelare l'evento clou. In realtà sì, però prometto, non dico niente. Però possiamo rivelare ai nostri ascoltatori che tutto il discorso costruito da Romain, a un certo punto, tutto il suo castello di carte crollerà. E una volta crollato tutto, sarà lo stupore, l'incredulità, anche il disgusto a caratterizzare lo stato d'animo delle persone che avevano condiviso in qualche modo la vita di Roman, del nostro protagonista. Ma a questo punto, Oliviero, è necessario porci una nuova domanda, forse ancora più attuale, visti i tempi che corrono. Perché siamo portati a credere a certi racconti, anche se sono falsi, anche se non abbiamo nessuna prova della loro autenticità? Perché siamo portati a fidarci di alcune persone o di alcune notizie senza verificarne l'attendibilità? È una domanda difficile, Maria, ma forse la risposta sta nella stessa definizione di post-verità di cui abbiamo detto in apertura, che parla proprio di circostanze nelle quali fatti obiettivi sono meno influenti nell'orientare la propria opinione che l'emotività e le convinzioni personali. Abbiamo creduto al racconto di Roman perché era più facile credergli che diffidare di lui. Era più facile per i genitori, che non avrebbero mai potuto accettare la verità di un figlio che aveva mentito loro sulla laurea, sul lavoro, sul futuro dei loro risparmi. Così come per la moglie, che nonostante tutte le contraddizioni, che non può fare a meno di notare nei comportamenti del marito, le ascrive al suo carattere, al suo temperamento. Era più facile anche per il suo miglior amico, Luke, che dopo 18 anni scopre che la persona che meglio avrebbe dovuto conoscere, in qualche misura, non era mai esistita. Beh, Oliviero, quello che dici vale in un certo senso anche per noi, quando siamo portati a credere a delle notizie solo perché confermate dalle nostre convinzioni precedenti, no? Sì, e nel caso di Roman, le persone che gli stavano intorno si sono fidati a tal punto delle loro convinzioni da cogliere solo gli aspetti del racconto che ne potevano confermare la verosimiglianza, trascurandone i tanti lati opachi, se non oscuri. Vero, ma è difficile che il tuo migliore amico faccia il debunking della tua vita. No, certo, ma a quanto pare non lo fanno neanche gli amici su Facebook. Quante volte condividiamo un post senza verificare che quella notizia sia vera? Lo facciamo perché ci fidiamo della persona che lo ha pubblicato, che a sua volta si sarà fidata di qualcun altro, e spesso inneschiamo catene di false informazioni, fake news, bufale, che a forza di essere ripetute diventano vere o sopravvivono nel senso comune. Del resto, Oliviero, è lo stesso concetto di verità ad essere problematico. Quando un racconto è vero? Quando coincide con il fatto accaduto? O quando si dà come racconto credibile e coerente? Ricordi la massima di Nietzsche: non ci sono fatti, solo interpretazioni. Con Nietzsche mi inviti a nozze, ma qui servirebbe il parere esperto del nostro amico Gianluca, che salutiamo. Torna Gianluca, torna a 42. Comunque, Oliviero, entriamo in un territorio molto molto complesso di cui sarebbe interessante discutere ancora, magari in una prossima puntata, chissà, in compagnia di Gianluca. Ma adesso il nostro tempo è quasi terminato e dobbiamo salutarci con l'ultimo pezzo. Prima di salutarvi però permettimi di leggere agli ascoltatori questa breve frase, ancora una volta dal romanzo di cui vi abbiamo parlato oggi, L'avversario di Manuel Carrer. E a proposito del dottor Romain, Carrer scrive: quel che si sa di certo è che alla maturità, sessione giugno 1971, ha ottenuto un ottimo voto in filosofia, scegliendo tra le proposte la traccia La verità esiste? E con questa domanda da $1 milione vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di 42 La Risposta, e ci ascoltiamo il brano dei CCCP, Tumenti. Ciao, alla prossima! Ciao! Senza fuggire, eri carino, proprio un amore.